Ed eccoci in studio, prima di lasciare la parola alla nostra ospite, volevo leggervi un brevissimo profilo biografico. Gabriele Scomparin è una poetessa e scrittrice nata in provincia di Venezia, ha lavorato per 35 anni come infermiera professionale e da quando si è laureata ha iniziato a fare l'insegnante e a dare spazio alla passione che coltivava da quando era molto giovane. Ha stampato per proprio conto una piccola autobiografia, 9 donne con nome di fiore, ed una raccolta di poesie, Colori d'autunno. Ha ricevuto il secondo premio internazionale Città di Treviso, dove abita, nel 2007 con La Campana, ed il primo premio Simon Benetton nel 2008 con Componimento. E quindi lasciamo la parola alla nostra amica Gabriella. Buonasera Gabriella, bentrovata. Buonasera e grazie di avermi invitata a questa trasmissione che parla appunto dei noantri, esattamente. Storie dei noantri. Esatto. Naturalmente, ecco. Interrompo un attimo per dire che questo era molto breve, ma lasciamo il resto della biografia e di tutte le altre opere alla, naturalmente, nostra ospite. Prego. Allora, io appunto sono Gabriella Scomparin e oltre alle opere che lei ha citato, ho scritto anche qualcos'altro, tipo narrativa, per esempio Un grido al cielo, che parla della violenza delle donne e che comunque, insomma, ne sentiamo parlare sempre. Tema di scottante attualità, effettivamente. Ok, poi ho scritto un libro che si intitola Sono partito dall'Africa, giusto per ricordare appunto la storia dei migranti che arrivano, insomma, è un po' un romanzo. Un altro libro ultimamente, quando ero bambina c'era anche nonna nell'aia e questo vorrei presentare in questa occasione appunto parlando dei noantri. Esatto. E l'ultimo, Sempre si impara di narrativa, qualche altro di poesie, Belli Venzuola, che dal titolo si evince appunto il luogo dove sono nata io, che è una zona di Torre di Fine, nel litorale, una zona di terreno bonificato che i miei lavoravano. Io sono originaria da una famiglia numerosa, eravamo una trentina di elementi in quella famiglia, tra zii, nonni, sorelle, fratelli, cugini, eravamo, cioè non c'era da annoiarsi. Civiltà contadina. Il libro l'ho scritto per ricordare tutte le emozioni che provavo io in quel periodo e che mi sono rimaste impresse dentro. Ricordo persone, ricordo l'ambiente, le usanze, i valori. Ritengo comunque che siano stati fondamentali per me per crescere sana e serena. Ricordo che negli anni 50 chi viveva dei prodotti della terra faceva esperienze di regole, di obblighi, ma anche di piccole e grandi gioie che stanno proprio nella società, si dedica alle fatiche, ma fatiche condivise, insieme a insegnamenti che formano poi alla giustizia, al rispetto e alla gratitudine per chi ci ha preceduto. Ecco, in alcuni capitoli del mio libro, come A Femmina dei Mestieri, Le Feste, Le Merende, Giochi e passatempi, appare chiaro il valore dello stare insieme, la leggerezza del vivere accompagnato. A volte uso anche le parole di allora che rendono meglio la realtà. È un parlare in petel, come avrebbe detto Andrea Zanzotto. Ho scelto una prima poesiola in dialetto dedicata alla nonna, visto che il titolo del libro è Quando ero bambina c'era anche nonna nell'aia, che vado a leggere. Bene. Nonna Marianna. Nonna Marianna, vestia de ongo scuro, con adressa parco con, e sia coe franze pa scaldarse spae, aspartia col mescolo magnara tutti, solo se era ora de disnar. A ne paria fora da cusina qua scoa, se a ne vedea impunerai torno al fogher. A Pisea, stando in pie. E quando che go domandà perché, a me ha dato sul taser. Sotto attraversa Sossoni, na squeta senza mane go patrarse un fia de vinda a Cando e a de Abotesea. Poi venendo fora, a se sughi ai avari corro esso de aman. Me ago sognano tanto tempo fa, con una corona in man, in genocià davanti a Madonna. A Bisea, che non se gada a disturbar chi che se drio pregar, e mi, Tosetta, vo ascoltà. Ecco, questa è la poesiola dedicata alla nonna. Un quadro proprio di civiltà contadina che per chi ha vissuto come me, diciamo, gli ultimi scampoli di questa civiltà e proprio riporta alla mente una società, anzi una comunità che è molto diversa dall'attuale. Comunità dove si doveva stare assieme per forza e quindi ci si adattava e ci si sacrificava e reciprocamente ci si dava una mano. O sbaglio? No, è la condivisione, no? Il discorso la chiamano intelligenza sociale, una sfaccettatura della nostra intelligenza. Comunque è la condivisione delle gioie e anche dei doveri, degli obblighi, degli impegni che si deve avere nei confronti degli altri, nei confronti della natura, degli animali, rispetto anche della terra, appunto di ciò che la terra dava allora. Ok, adesso io ho scelto anche un brano, qualche spunto sulla mia infanzia, parlando appunto delle mamme. Le mamme di una volta allattavano i neonati lontane da occhi indiscreti in camera loro, nascoste drie coltrine de macramè, lunghe fino in terra, no come quelle della cucina a quadretti bianchi e rossi, che coprivano solo la metà inferiore delle finestre. Fino a 6-7 mesi ci tenevano sotto i colsere, avvolti in fasce alte, forse 10-20 centimetri, comprendenti mani e piedi per farci crescere dritti, dicevano. Anche muovendoci, finché non avessimo raggiunto una certa consapevolezza, non saremmo caduti da quei letti alti, immersi in certi cuscinotti riempiti di piuma di gallina, sempre a disposizione, dovendola sostituire più spesso, in sacchi appesi in granaio, all'asciutto, certo meno pregiata di quel del piumino d'oca che usavano per colsere i cucciai. Se dormia, sui paioni descartossi, su quadroni bianchi e blu, riempiti da blatte da rimuovere ogni mattina infilando le mani in apposite fessure. Ad ottobre, dopo la raccolta del seturco, sostituivano le blatte per un po'. Mi ricordo che dormivo molto più volentieri, odorando quell'inconfondibile fragranza di grano maturo. Verso l'anno d'età le mamme ci abituavano a vari gusti, passandoci il cibo dalla propria bocca, in parte amalgamato e già masticato. I bambini che iniziavano ad arrangiarsi invece, nonna o zia li sedeva allineati con la schiena appoggiata alla parete libera della cucina e tra le gambe divaricate una scodella in alluminio con dentro un mestolo di pasta e fagioli o minestra di patate, dei risi e bisi. L'estremità inferiore del bavaglino allacciato al collo doveva stare sotto il fondo della ciotola in modo che potessimo raccoglierci eventuali spandimenti, essendo ancora dei paciugoni. A qualche anno di età si mangiava insieme alle mamme, se non impegnate ad allattare, seduti sulla scala che portava alle camere e sbiancata di tanto in tanto a forza di olio de gomio. Attorno al tavolo color verde smario, come la credenza e la vetrina alloggiate al lato opposto del foguet, sedevano solo gli uomini in socareghe ed estrame, impaiai dal nonno quando servia. Vado avanti, prima delle feste, cioè voglio dire con un altro capitolo. Sì, che parla No, ci fermiamo piuttosto per un'altra canzone, okay. Magari che così bilanciamo la scaletta. La prossima canzone è di John Lennon, Woman. Success. inside the man. Please remember, my life is in your hand. And woman, hold me close to your heart. However distant, don't keep us apart. After all, it is written in the stars. Eccoci di nuovo in studio con la nostra ospite, alla quale chiediamo di procedere in questo ragionamento, in questo discorso. Ecco, io adesso volevo continuare leggendo qualcosa, qualche riga, insomma, sul rapporto che c'era tra bambini e animali, e saltando una buona parte, insomma, considerato che gatti, cani una volta non mancavano, credo, in nessuna famiglia. Assolutamente. Così come non mancavano volatili da cortile di tutti i tipi, ma anche i porcei sostagoli. Sì, certo. E allora, prima delle feste natalizie, toccava ai maiali, quando parlo appunto della uccisione del maiale, era consuetudine ammazzarli col freddo. Li trascinavano uno per volta con un cordino fissato al grugno, fuori dal stagolo, costruito a mo' di palafitta, con le tavole sollevate da terra per via degli scoli. Lo stendevano quindi sulla carriola, lavata con acqua bollente, perché lì avrebbero raschiato anche il pelo dalla cottica, rivendendolo all'ometo rosso in viso, certe volte in grigua, che passava sigando strasse, ossi, ferro vecchio. Un mattino, un grosso maiale, divincolandosi dalle prese degli uomini e impazzito dal dolore, si era messo a correre col coltello ancora piantato sul collo e andava tra i filari gridando a squarciagola, spargendo il suo sangue rosso sulla terra gelata. Uno straziante grido riempiva le orecchie di tutti i presenti. Credo raggiungesse anche il mare. Alla fine la povera bestia cadde esausta, ma ancora viva, e la sua tortura fu molto più dura quella volta. Per me nascita il cuore. Le donne non poterono raccogliere il sangue da sotto per fare il baldon, rimestandolo continuamente perché non coagulasse. L'avrebbero cotto con uva passa e farina da polenta, aggiungendo qualche fico secco. Un dolce squisito che si mangiava a fette ancora tiepido o freddo dopo qualche giorno. Quando nonna si accingeva a curar Poame dopo averlo stuio, i cani, sempre affamati, tentavano di sottrarle qualcosa, riuscendoci qualche volta. Mi sovviene che un pomeriggio, nel bel mezzo della faccenda, mentre lei ripuliva l'interiore del volatile con l'aceto, in umido sarebbero servite a imbastire a cena, il cane gliele aveva strappate di mano. Così, lei tirava da un lato e quello dall'altro. Aveva iniziato a rincorrerlo mentre comandava a me di allontanarlo, ma io, sapendo quanta fame avesse sempre quella povera bestiola, non le ubbidii in quel frangente. E queste erano appunto le faccende, cioè quello che si viveva nel cortile, esatto, di noi contadini, insomma, era un fare comune a tutti, credo. Un rituale anche questo, un del rituale. Maiale, che naturalmente... Ecco, adesso parlo un po', sì, del tipo di alimenti che si usavano allora. Mattina e sera i bambini mangiavano latte, cotocchi de pan vecchio rimasto dal giorno prima o una fetta di puente abbrustoeada. Anche i grandi la mattina consumavano latte, a pranzo e a cena invece ciò che producevamo in casa e nell'orto, per fortuna, non ci è mai mancato. Ma per andare a scuola non c'erano merende. E quando tornavamo verso l'una, ciascuno trovava la sua scodella d'alluminio in calda a sisterci, con dentro minestra o minestrone, pasta asciutta solo una o due volte a settimana. Un po' di pesce o carne ai più grandicelli. Si pensi che il collo di un pollo bastava ad accontentarci in due o tre. I dolci li facevano nelle ricorrenze ufficialmente riconosciute come Natale, Pasqua, Carnevale, Santa Lucia, ecco, dalle frittelle alle paste coa crema, che qualche volta poi, siccome venivano distribuite alle varie colonne, potevano anche andare a male in camera. Allora, andando avanti, nonna provvedeva anche alla cagliata del latte, togliendo prima il cavo affiorato durante la notte, stando al fresco sul secere in certe catinelle. Sarebbe servito a fare il butiro, che noi bambine, appunto con quell'attrezzo fatto dai grandi in rame e col manico da girare, dovevamo assecondare la nonna poi per farlo. Intiepidito lo scolo, poi rinnovava la cagliata e avrebbe ricavato una puina buonissima. Più assaggiata una cosa tanto. Sapori antichi, una madeleine rustica praticamente. Sì. Ai più grandicelli la sera, oltre al latte, perché anche la sera si mangiava il latte e quello avevamo, insomma. C'era anche qualche volta una sottile fetta di salame, sembrava un'ostia. Il disnar, spartito sempre solo dalla nonna, era misurato ma curato. La razione non ti avrebbe fatto né ingrassare né venire il colesterolo o la pressione alta. Non c'era pericolo all'epoca, no? No. Il pomeriggio, per la merenda del pomeriggio, allora in questo caso sì, c'era la merenda fatta col miele delle arnie che uno zio aveva la premura di coltivare e di seguire, la nonna, intingendo un cucchiaio nel vaso del miele con la bocca larga per far passare giusta la sua mano, pur ritraendolo in piedi, riusciva a sporcare 4-5 tozzi di pane e noi ci lamentavamo puntualmente della scarsità. Ma il miele doveva bastare tutto l'anno all'intera famiglia. Se qualcuno aveva la febbre alta, la tosse, la diarrea, insieme all'olio di ricino, che te assavano a bocca impastata che mai più, ci davano qualche cucchiaino di miele. Nei mesi autunnali, a metà pomeriggio, si accontentava con qualche pezzetto di zucca cotta al forno a legna o con qualche pezzo di patata americana. Io mi fermerei qui per dopo proseguire con un altro argomento. Possiamo tranquillamente proseguire, sì, abbiamo ancora tempo, tranquillamente. Possiamo, sì, andiamo allora pure avanti. Parlo una poesiola sempre in dialetto che ricorda appunto l'infanzia. Ti ricordi tu? Ti ricordi tu quel ciapo dei puteti? Spero che la gente capisca il dialetto che beh, parlo poi io, magari perché ne possiamo è della fare bassa una breve, ne possiamo fare una sintesi magari anche in italiano volendo dopo, sì? Ecco, non è proprio il trevisano parlato dai cittadini, questo è un dialetto della campagna trevisana. Ruspante. Perché i miei originari dal Musestre, certo, e da Marteggia avevano quel dialetto. Certo. Ti ricordi tu che il ciapo dei puteti, che andando dottrina, drio il canale, il serchea tra mieri e mieri, i sassetti più lampri, quei con la veneta de rusine per farli sciantisar? Prima inete appuito sulla panza del traversone, e quei manciompe del freddo, il russea de sbrisson finché mi vedea il sciantison. Cogliera piccaldetto, te venia e urbarioe. I averi a volte si inciusea, cusia gatagnao, neimo a sgrindoear magari un po' mer, o anche al cacher fora staion, assando ai rosegoti. Ti ricordi tu era tarigue sotto i piedi scalzi, sora al sarezer, a qua bocca piena di osseti da spuar, qua pressa sul culo? Se vivea qualche dunte, gai da scampare e scavessa campi, o scondete, drio a stiesa, star sitto, spetar, non muoverte. E il paron, te gavaria in torquea e rice, fando te pair anche il disnar. Certo che ecco. Queste sono immagini che, ripeto, io ho vissuto gli ultimi scampoli di quella, di quell'epoca. E forse io ho qualche anno in più. No, ma è proprio una questione di un mondo che viene così, anche attraverso altre testimonianze, viene a formarsi una, come posso dire, un prisma, un qualcosa che riflette un mondo che sembrava, come dire, rustico, grezzo, ignorante, eccetera. In realtà si nota che c'era una saggezza di fondo, una affidarsi alla provvidenza, affidarsi a Dio in tutte le proprie attività, che evidentemente dava anche quella serenità e quella sicurezza per poter andare avanti. Non so se... Basta ricordarsi tutte quelle cerimonie che erano in uso allora, quando in primavera, cos'era, in febbraio, si andava per le erogazioni sulle campagne, sì, in campagna, a piantare croci ai quattro punti. Le erogazioni, no? Argomenti che dovrebbero essere recuperati per i ragazzi, soprattutto, che sicuramente non sanno di che cosa si tratta. Ma sì, noi bambini, con questa croce bianca fatta in legno bianco, pulito, no? Raschiato e con chiodetto là in mezzo, con sta croce eravamo entusiasti, eravamo come si dice, pieni di orgoglio, esatto, di poter di portare seguire questa crocetta, sì, e poi piantarla dove decidevano i grandi. Sì. E le erogazioni che erano, lo diciamo a beneficio dei nostri ascoltatori, erogazioni erano quei rituali che servivano per, diciamo, richiamare l'abbondanza. Esatto, esatto. Dei raccolti. Sì. Poi tutte quelle preghiere, non so se c'era un temporale, subito ad accendere candele, esatto, giù, preghiere davanti alla Madonnina, a un quadro di stampa, perché altro non c'era, c'era esatto, con questi due moccoli dentro alla polenta gialla per farli stare in piedi, esatto, e una specie di altarino improvvisato con due erbe, e lì si pregava. Ci si affidava appunto alla divinità, naturalmente, e erano tempi in cui non c'era ancora quella indipendenza o finta indipendenza che abbiamo attualmente, che diciamo ci fa pensare che possiamo essere assolutamente bastanti a noi stessi, insomma, ecco. No. Beh, io cioè, per fortuna ho avuto una mamma con grande fede, e anche se per alcuni anni, quando uno vive appieno una vita, diciamo, di corse, lavoro, a casa, famiglia, eccetera, no? Non si pensa tanto al bisogno che invece avremmo di rivolgere qualche pensiero a qualcuno che sta da un'altra parte, che è più grande di noi, che poi noi crediamo di decidere, ma che dispone qualche altro. Esatto, diciamo, no? Esatto. E su questa considerazione andiamo al prossimo brano musicale, che è Donne di Zucchero. Ok. eccoci di nuovo in studio, dove ci ha raggiunto finalmente con nostro grande piacere e sollievo la nostra amica Jessy. Buonasera Jessy. Buonasera a tutti, buonasera Gabriella. Buonasera Jessy. Ho avuto un po' di contrattempi, ma insomma... Nessun problema. Noi allora lasciamo un attimo la nostra ospite in sospeso e facciamo il siparietto, anzi lo faccio io questa volta soltanto, il siparietto Storie de che altri. Va bene. In questo caso però non è una poesia straniera, ma è un qualcosa che risale al dolce Stil Novo. Bello. Quindi è un tempo molto lontano. Di Dante Alighieri, un sonetto dalla Vita Nova, capitolo 26, tanto gentile e tanto onesta pare. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta. Cogne lingua de ven tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova, e par che della sua labbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira. Bella. Ecco qua, un omaggio alla donna. Un omaggio alla donna, grazie, grazie, grazie. Gabriella, tanti auguri. Anche grazie a lei. Ecco, anche se sono passati alcuni giorni, ma lo facciamo comunque così come un saluto e un omaggio collettivo alla donna. Eh sì, perché quel giorno non c'eravamo. Ecco. Bene, allora... andiamo avanti con la nostra ospite, con le sue poesie. Esatto, lasciamo continuare quel racconto, diciamo, sulle... Ammirevole il modo in cui appunto Dante si esprime relativamente alla donna. È qualcosa che tocca dentro, sì. Pur avendo un linguaggio... infatti, molto diverso, l'ho scelto apposta perché è molto diverso dallo sbraccamento collettivo attuale. Ma anche, ecco, anche il Petrarca... Proprio in netto contrasto. Tutti, diciamo, i poeti, ecco, di allora, sì. Bene. Erano veramente poeti, sì. Che altro, siamo così un po' dei narratori, la poesia è tutta un'altra cosa, insomma. Così. Io però volevo adesso soffermarmi un attimo appunto sempre sulle donne, ne avevo scritto una in dialetto e la leggo appunto pensando che le donne la capiscono bene. E femmine del secolo passato, esenate puarete. E ha passato guerre. Noi avevamo sbeto ne stramassi de ana, ma paioni, e nisioi de caneva. E socotto e dai caece se ga scurtà. E calse fate a feri, se diventai collam. E lavava solampor, qua senare pa sbiancar, ma masteo che gira e se ga da ta. E butea su egna pa cucinar, ma i ga inventà il gas. E se scaldea quei bronze de Amonega ed esso e ga il termo sifon, e andea a bottega con 12 bovi, po, non li mania neanche a pi per via del male al figà? E levea una carga de tosati e cantea Ave Maria in falsetto, ma te vision vega fate tasa. A sua vita gli era tutta de fora. Ma i gasserà e su paesi alti adesso, né poi più veda neanche il sol. E femmine del secolo passà, ed è state ore a darne quel che un cuore sega. Bella, è una considerazione bella, bella, proprio sì. Condivisibile, sì, sì, effettivamente. Sì. È un omaggio sempre. Prego, prego. Adesso, se volete, continuo appunto sul mio percorso, parlo un attimo della femmina dei mestieri. Benissimo. Visto che l'ho accennata. Una delle quattro cognate si occupava a turno delle faccende domestiche quotidiane, perciò era detta femmina dei mestieri, che tra l'altro era esonerata dal lavoro dei campi in quel giorno, chiaramente. La mattina si alzava prima di tutti per accendere il fuoco sotto una pignatea per il caffè. Quando che l'acqua bolliva, ci buttava un scugliere di estratto e uno di misea, due cucchiaini di caffè sovrapponendoli ai fondi del giorno prima, senza massa sgarucciar, fino al sabato. La domenica si rinnovava il tutto, ma i fondi li recuperavano per ribollirli e darli magari alle vacche partorienti. O sarebbero serviti a incoltare gerani, orto. Sì. I fondi del caffè, come a Senare, tengono lontani certi parassiti. Ritirando poi il panciuto pentolino messo in cragnà dai serti, aspettava che la polvere si depositasse e raccogliendo da sopra quell'acqua al gusto di caffè, si direbbe all'americana oggi, lo metteva su a coma con quercio a libro, lasciandolo là in calda. Man mano che i grandi si alzavano, si sarebbero serviti da soli. La sera la donna dei mestieri con un randello ben tornito che si sarebbe usurato da un anno all'altro rimestava quasi un'ora la polenta a sua caliera, a cui era riservato un alloggiamento specifico oltre il piano cottura. Fossero saltati i tacqui o sghinzi, non avrebbero in cofà i serci. A versarla servivano in due di loro, tanto era grande, e quella rimasta dalla sera la tagliavano a fette con aveta del fio in torcoeada. La mattina l'avrebbero arrostita per far pestarei, nel latte sempre bollito per via della tubercolosi, anche se il bestiame nostro era già stato risanato. Era lei che la sera d'inverno scaldava l'acqua per lavarsi. Poi il sabato toccava spazzare l'aia, lucidare il piano della cucina con la carta vetrata e metter sola a porpurina, e nettare i veri anche quei giornali prima delle feste grandi, non era strasse da buttare via. Aiutava anche nonna ad ammazzare qualche volatile per la domenica. Però, come facevano, per me è sempre stata una visione, diciamo, un po' cruda. Infilando la punta delle forbici parlareccia, trapassava la testa del gallinaccio appeso al paletto a testa in giù per far uscire tutto il sangue. E a fine settimana, con uno straccio imbevuto di petrolio, passava le pietre del pavimento della cucina, che anche se qua e là mostrava qualche cedimento, assumeva un bel color mattone da sembrare quasi nuovo. Toccava alla donna dei mestieri lavare le stoviglie con l'acqua con cui avevano cotto la pasta e aggiungendovi qualche manciata di semola e i pochi avanzi, la dava poi come pastume ai porsei insieme a patate rovinate magari durante la raccolta oppure alle bucce di patate, a sucoie e suche vece o a barbabietole di cui loro andavano ghiotti. Non smetteva mai di usare scoa e scoasera per tenere puliti in ordine tutti gli spazi comuni. Tendeva, raccoglieva il bucato, se bagnato lo deponeva sul cavaetto, se asciutto divideva la biancheria di ciascuna colonna facendo quattro munci sulle sedie. Al ritorno dai campi ogni amia avrebbe riconosciuto il proprio e ripiegandolo l'avrebbe deposto sul suo cassone in camera, da un lato la biancheria da letto e dall'altro maglie da sotto e vestitini di bimbi, un cambio ciascuno, non di più. Ecco, questo per dire. Sì, ma sono vere, proprio, ma delle verità pure. Infatti, poi le spese del vestiario le facevano a San Martino dopo aver venduto tutti i raccolti, e a seconda di com'era andata l'annata, i metri di tela potevano essere appena sufficienti o forse un po' di più, insomma. Dipende, poi sì. Io ricordo quell'inconfondibile profumo di tele nuovo che si spandeva per tutta la casa. È vero, è vero. E restava però inalterato finché non le avessero bagnate queste tele per evitare il calo dopo il confezionamento. E anche il profumo di bucato, che quando facevano il bucato era un profumo meraviglioso. Ecco, infatti la stoffa poi andava suddivisa per secondo i componenti la colonna, e serviva a far traverse travessoni, camise, braghe, anche mudande, panesei, insomma. Ma lì facevano che... tutto in casa, le donne il pomeriggio erano lì alla macchina da cucire, facevano... Oppure lavoravano a ferri. Sì. Certo, col freddo sotto le colsere mettevano a monega quei bronze per intepidire una scianta i letti. Ma i piedi dei bambini, siccome non c'erano abbastanza moneghe, mettevano una piera scaldata sul forno sì. Dopo averla avvolta magari su un pisotto vecchio, ecco, sì. Io ricordo proprio che poi si bruciavano, bruciacchiavano, esatto, anche queste tele, questi pezzi di stoffa, insomma. E il ferro da stiro lo usavano solo per i piede dei braghe, oppure per stirare qualche camicia bianca degli uomini, quelli a domenica, però se era un segai bisognava lavarle prima e mai stirarle umide, e se cavaria in candio. Ecco, questa è la visione della donna. Ah, non si stiravano umide una volta? Guai, no, perché col ferro, con le braccia, si candiva. Vero. Poi il sabato l'imbrunire era la volta del bagno, sì, a tutti, col freddo in stalla e nella bella stagione all'aperto, però sempre a riparo da occhi indiscreti per lavarsi le sgambarie. Sì. E poi, se per sbaglio ti toccavi il tampon, l'acqua se cavaria tutta a spanto. Ogni mamma lavava i propri figli su un mastito, con l'acqua mai abbastanza calda, senza cambiarla, scomissiava dal pipicque. Si strofinava la pelle e i capelli con la saponina, risciacquandoti infine con un po' di aceto per farle diventare lustri. Sì, figuriamoci l'ingattiamento, ma nessun gavea a paioe in testa. Specialmente quando c'è paioe. Paioe cosa? No, io non conosco tanto il dialetto. Paioe è la forfora. La forfora. Sì. E neanche peoci, nessuno aveva i peoci. Era veramente una società, una comunità di sussistenza e di ritrovare, come col maiale, con tutto quanto il resto lì, tutto veniva buono per dare una mano in casa, non si buttava via niente. Proprio vero, insomma, non si buttava niente. Non c'era civiltà dello spreco come c'è oggi, appunto, insomma, ecco. Si mangiava anche pesante, però si digeriva tutto. E altro che, con le fatiche che si facevano. No, come adesso che... adesso abbiamo tanti il colesterolo, ecco, appunto. Ci dicono si accumula il grasso attorno al punto vita, stiamo sempre a sentai per forza, appunto una volta no, una volta non c'era tempo, appunto. Io volevo finire questo capitolo, prego. Ancora qualche un minuto o due, va bene. Allora, relativamente alla infanzia, appunto, quando si andava a scuola e che c'era un grande rispetto per le figure istituzionali, figuriamoci, se parlava la maestra, guai, insomma, bisognava ascoltare. Infatti, se qualcuno parlava in sua assenza, finiva in un angolo dietro la lavagna, in ginocchio sui sassolini appuntiti, magari scelti dai compagni maschi, autorizzati a punire i trasgressori. Anch'io ci sono finita due volte, Bravo. Credo quasi e tutti. Ogni lunedì mattina quella ci passava in rassegna come farebbe un generale, ci esaminava le orecchie che mamma ci puliva con la moeta da cavei, non c'erano mica i bastoncini o altro, no? Poi guardava le mani, dovevamo stenderle sul banco, e chi aveva le unghie sporche o lunghe doveva aspettarsi una sbacchettata. Con righeo in legno, qui ho squadrato, proprio quel che avrebbe fatto più male, insomma. Esatto, effetti dolorosi. Sempre bella, in bella mostra sulla cattedra. Dopo però, intirizziti dal freddo come eravamo, le nostre mani avrebbero faticato di più a tenere in mano il canotto, senza sguindolarlo, col penin magari schincà, tremando. Ecco, è giusto la poesiola sulla maestra. A maestra... A tedea par voto un visto piccenin, o grando come una pagina. Un bo, che se gli era grando, vuoi a dir brava, se piccolo benin. Tanto bauca guidea, perché mi il bo grando non go mai ciapà. Se onge gli era unghie sporche de terra, te immatunia i dei con a sbacchetà. Par chi che do parea sanca, a te ighea a manso a cintura del traversone. E se te c'ha quei una scianta, te finì appunto drio alla lavagna coi sassetti, sopra i sassetti. Dentro a sacchetta de carton che era un canotto, un quadernetto qua copertina nera pien de mace di inchiostro che andava sempre slonga. Un sussidiario coi recce o sporcale pisarotto. d'inverno sempre in Crodui, perché a scuola che era sua, ma no a Igna, se qualcheduno la portava. Sì. Col caldo sdrei o descalzi, e niente ma rende, porito sattei. E siti muci stasi che riva maestra. Ecco, sì. Così, così era. Esatto. Sì. E quindi passiamo al prossimo brano musicale, sì, che è Woman in Love di Barbara Streisand. Studio con la nostra ospite e per l'ultima tranche, ormai siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione. Ecco Gabriella, lei? Sì, ecco, io ho soltanto due righe dell'ultimo capitolo, sì, dove appunto la mia speranza è che anche se la vita è molto cambiata, si recuperino un po' quei valori che rendono tutti un po' più saggi e più umani. Dediti a un vivere un po' più partecipato, più vero. Certe modernità hanno fatto scomparire proprio l'allegria dello stare insieme. Vabbè. E così ho una nota di nostalgia ogni volta che ripercorro i stradoni di una volta, ora deserti, mi sale una grande nostalgia per la stabilità pacifica e policroma che si respira. La si può ancora ammirare. Sull'asine del canale è cresciuta erba alta, non come quando le vacche al pascolo la ripulivano fino a raderla, e dentro i fossi canei e grisioi che nessuno raccoglie più per fare scope o contro soffitti. Il mare è rimasto a seminare bolle lucenti in riga, pure ruttando immondizia oggi. Qualche airone ha costruito il nido nel canneto. Le piume smeraldine e amaranto dei fagiani luccicano tra la sterpaglia. La terra conserva la presenza di anime portate via dagli anni e dalle fatiche. E leggo adesso l'ultima poesia che chiude anche il mio libro, che si intitola In fondo la IA. In fondo la via? In fondo la IA, la ah. IA con la I lunga. Cioè, cosa vuol dire in fondo? In fondo là, in fondo là, la IA. Io adesso sì, appunto, sì, abitando sì, sì. A Biancade. Sì, no, no, mi scusi, ma siccome non sono di non sono veneta, ecco. Allora, vorrei tornarmi a vivere in fondo a IA, ma il forno palpà se gasbarà, e stago dei porsei se vodo, e il portel dell'orto verto. A Cagliera paisi a sbusada, e il biroccio che sende a trar l'acqua se ga marsio, se spario anche al casone. E balconede a stai a nose pissuae, né mudo arde bestie, né vedeti che nasse. In fondo la IA, sul cortio, non esepito sa tei che si yoga, né caregoni né spassisi. Non esepi uomini e femmine indaffarai, poi ame, sbagliar de cani, smiagoar de gatei. In fondo la IA, i vecchi se tutti morti, i giovani non sa quel che era. E fioi non che ne nasce più. Beh, questa diciamo è talmente tempestiva che sì, in questi giorni sì. Le statistiche parlano proprio di questo. Ma in effetti una volta c'era, come dire, l'affidamento alla divinità, alla provvidenza, eccetera, non si era autosufficienti da un punto di vista, come dire, sociale e spirituale come siamo adesso, però c'era una prospettiva per il futuro, o sbaglio? Era perlomeno avevamo più speranza. Esattamente, è questo. Sì. C'era speranza nel domani, pur non sì. Sapendo nulla, pur ecco, appunto, appunto. Esattamente, si affidava alla provvidenza, questo è. Perfetto. Abbiamo comunque, ancora spazio, sì, prego, prego. Ecco, io, diciamo, questo libro non lo si trova in giro nelle librerie, perché ho notato che o sei una persona molto in voga, molto in mostra, o non vendi niente. Quindi. Diciamo che è una testimonianza che è fondamentale di una civiltà che se n'è andata molto tempo sì, dietro. Sì, è peccato però che la poesia... Ecco, a proposito di poesie, direi che abbiamo spazio ancora per una o due poesie abbastanza, diciamo, brevi, se la nostra ospite ci può deliziare con queste. Allora, l'avevo... Sì, del libro di Livenzuola, dove appunto ho scritto tutte poesie in dialetto, però ne ho anche qualcuna di scritta in italiano, insomma, per esempio nel mio ultimo libro intitolato di poesie intitolato Vento da Nord-Est, appunto il vento labora, sì. Ho scritto una poesia sulle donne. Ecco, benissimo, quindi pertinente. Noi donne, secondo il mio punto di vista, teniamo il mondo in mano. Nessuno ce l'ha mai detto per paura che gli usurpassimo il suo potere. Il nostro sapere viene dall'anima che nemmeno noi a volte conosciamo. Penetriamo tutti i mali, perciò soffriamo. Ci accontentiamo dell'oggi, ma vorremmo scalare il domani solo con le nostre mani. Percorrere strade nuove con i nostri piedi e volare oltre, lontano, oltre il comune intendere. non dobbiamo nulla a nessuno noi donne. La nostra forza sta nel saper tanto amare e vorremmo sempre farlo trionfare. Non si può che condividere questo punto di vista. Direi che se c'è spazio ancora per una poesia in dialetto, però stavolta perché storie de no altri non può altro che essere, diciamo, una condita da questi, da queste reminiscenze. E allora ne leggo una sul nonno. Sul nonno, bello, bello, perfetto, sì. Mi pare proprio leggo quella sul nonno. Sì. Nonno Augusto, egli era beo, grando, buon come un tocco de pan, potante pane de caffè latte, un scartosseto di tabacco sul scarsein de fustagno pa impienire a pipa, da struccar zo qua punta del deo meneo. E gli dise a paroi agli uomini qui era in surii e paitosatei, gli era giusto il renghesso, ma guai al sarema, e gli ad ascoltare stesso. E gli era bravo farli tutti, po, rispettanca dai foresti. Un cuor grando e a chi che gli era assenza, e gli versea a sua credenza. E ne insegnea ad estreguare il bisi, a vardar i pipicenini, sentà sul caregon. E vedea cresa i boceta copia ser, intanto e se risia i mostaci, pa farli risar tutti da una parte. Voria mi verlo ancora qua, me nonno, pa insegnargli a creanza a chi che non ghe nega. Ma senza alzare ma, con un sorrisetto o un basetto. Bella, bella, bella, sì, sì. Il potere della parola sì, qualcosa. È un ritratto, diciamo, di un tempo che è effettivamente... Che non c'è più. Ma che non c'è più, ma che è opportuno, anzi meritorio, ricordare a favore delle nuove generazioni, perché non possiamo dimenticare chi ci ha preceduto. E non possiamo fare altro che ringraziare nuovamente la nostra amica Gabriella Scomparin per la sua testimonianza, che è qualcosa di veramente straordinario e che ci resterà naturalmente nella prossima, nelle prossime volte. Chissà che ci sia un'altra possibilità futura. Io mi scuso del ritardo ancora, ma ringraziamo naturalmente le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori e a Dio piacendo. A domenica prossima. Volta. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie Gabriele. Grazie. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.